male. Manuela, per dire, non ha difficoltà di nulla, canta tutte le canzoni in inglese, francese, tedesco, come ti rimuove le gambe. Però ha fatto anche un corso di canto, quando praticamente a Valdenda c'era un centro ricreativo per i giovani di canto, e lei aveva fatto questo corso di canto, e lei e un altro sono stati ingaggiati dalla professoressa che gli faceva lezione, perché gli sono piaciuti come cantavano, e ha fatto fare spettacoli nei paesi, insomma un bel di roba, cioè ha fatto uno spettacolo a Sorso, ha fatto uno spettacolo a Mulos, non a Mulos, a Carl Jäger. Lei ha fatto diversi, dai, è andato fuori nei paesi, ma poi doveva studiare, capito? Non aveva più la domenica che c'aveva libera, non doveva andare a cantare, doveva pensare anche a svagarsi un po', capito? Non poteva stare sempre studiando, perché poi lavorava dalle tre lì a fare le prove, tutto quanto, e era il gustino. Come te la prendi quella strada lì, o se no devi lasciare perdere. Ma Manuel l'hanno inaugurato anche i locali, visto che quel locale che c'è dove c'è il tabacchino, cos'è quella lì? Non è che è obbligato a Sassa, è via Cagliari, quel bar che c'è di via Cagliari vicino al tabacchino, quello lì l'ha inaugurato lì, il giorno che l'hanno aperto c'eravamo anche lui perché cantava lì, e il ragazzo praticamente metteva le canzoni col mixer, lui era il mixer e lì cantava, e poi chiamava la gente per cantare, ha cantato anche Marco. Sa cantare Marco? E Marco è bravo lo stesso, sì. Marco è bravo ma è vergognoso, capito? Non le piace farlo davanti agli altri. Però il giorno, siccome c'era la sorella che cantava, l'ha cantato anche lui. E se non è bravo disegnando Marco, ma un giorno che viene a casa ti faccio vedere come ha fatto Freddy Mercury, che fu preciso. Io ho fatto il quadro, l'ho incollicato, e lui ha scritto per papà e ha messo la data, Freddy Mercury. Aspetta, l'ho fatto io, per il vostro video. Tu vai sullo stato che ti ho mandato il quadro che ha fatto Marco. Cazzo, Freddy Mercury ha disegnato. Sì, che bravo. Ti ho comprato quelle penne dai cinesi, sta facendo tutti questi quadretti qua. Ma c'è tutto l'arte, è andato. Cosa? No. Ha preso dal nonno, il nonno era un pittore. Sicuramente ha preso dal nonno. Il nonno disegnava molto bene, prendeva primi internazionali, nazionali, su quadri che valgono un po' di soldi. E praticamente lui ha preso dal nonno, non è andato nell'istituto d'arte né niente. No, ho capito. È bravo. Visto cosa ha scritto, per papà. Perché sa che qui mi piacciono, capito? Mi sono sempre piaciuti, a me li ho fatti conoscere io qui da Marco, adesso è fissato con i Queen. Un po' di tempo fa. Ma sono sempre presenti, sono sempre bravi. Quando ascolto le canzoni dei Queen mi rilasso brutto. Va via Ruizio, va via. E infatti già si era bussato Gesù Cristo. Quella che fa mamma, na, quella lì è un bel bello. Poi di mercoledì piacevamo Segnò. Peccato che era un po' vizioso, c'aveva bisogno dell'AIDS. No, Giulia, non era vizioso. E lui, il giudice. E cosa il giudice? Io sto dicendo la verità, è fattuale, no? Che era Finucchio. Già lo so, infatti si è preso l'AIDS. È morto di AIDS proprio a causa della broche. Però questo non vuol dire, perché era sempre un grande artista. Sì, e perché Dalla e tutti gli altri non sono di due studi. Adesso non mi vengono i nomi, ma ce ne sono tanti cantanti. Come si chiama quello che sembra un puni, che c'ha il ciuffo biondo, ma non mi viene. È un po' come la razza. coso, come cazzo si chiama? Bah, ce l'avevo sulla punta della lingua. Quasi Don Renato Zero. No, pure Renato Zero era così. Quello che c'ha il ciuffo bianco, il pezzo del ciuffo bianco in testa, davanti. Ah, in Noravona. Che tu sei Ron, Ron, cosa, ci sono Ferro, Margiulio. Margiulio, Cristiano Margiulio, grandissimo pederasta. Dove che hai girato un piatto matto, Romè? Ciao Giulio! Ciao a tutti! Dai, sto facendo cosa? No, ho voluto suggerire il nome che non ricordavate, ma Giulio. Che ti ha fatto questa canzone? Mi sono innamorato di tuo marito, ma lo sei nate! Però quando è? Sabato scorso, se non ricordo bene, o domenica scorsa, c'era Renato Zero, che era ospite da Mara Veniere su Rai 1, se ricordo bene, e lui ha dichiarato che non è mai stato gay, era solamente un fatto di professione artistica per fare successo, però lui dice che non è mai stato gay. E ora vi grido, per me aveva tutte le sembianze, ce l'ha ancora, da gay, per tutti i movimenti, eccetera. Comunque, a fare lui. Avrà provato una busca, l'ha fatto male. E perché Gabriel Garco lo era stesso lì? Ce ne sono tanti nello spettacolo, tu adesso sembra che sia fatto con un coso, anche le reality le mettono, prima non inserivano queste cose, invece adesso se li stanno inserendo tutto per far vedere che è una cosa non si passa alla normalità, capito? Anche se per me non è così, non è mai stato così. Vabbè, ciao Giulio, buonasera. Ciao già. Lo so, purtroppo anche quelli sono esseri umani, per cui bisogna anche capirli. Io sono completamente contrario a queste cose, ci mancherebbe altro. Per me l'uomo deve essere uomo, la donna deve essere donna, è inutile stare lì a combinare le due cose insieme. Mi fanno anche schifo che chi è di quelli incondizioni, però cosa ci vuoi fare? A loro lasciamo di fare, ognuno della sua vita lo fa ciò che vuole, però io non condivido, non riesco, è inutile che molta gente dice sì, bisogna capire, bisogna sì, quello sì, non li condivido, però io posso ascoltarli, capirli, però non condivido ciò che fanno, e poi ognuno può avere il suo parere, no? La natura ha fatto l'uomo e la donna per accoppiarsi, per fare dei figli, per fare la famiglia. Questi qui si vogliono prendere i bambini in adozione, questi bambini vedono gli uomini che si baciano, cosa imparano? Infatti, non c'è cosa più bella della donna. Non capisco questa gente, ma è gente viziosa, già, è gente viziosa, io la considero addirittura malata, gente malata, è una malattia quella, evidentemente, comunque, facciano come credono, sono affari loro, bravo dai, io devo continuare, riprendi già, dai, e eventualmente dopo se finisco o forse rientro, non lo so, dai, ma adesso sto facendo qualcosina qua, riprendi. Ragazzi, siamo qua, se vuoi rientrare tu rientro, non c'è problema. Ciao ragazzi. Avanti, Antoine. No, vabbè, sono amato queste cose a me. Penso, cioè, chi ti... Ma se Gesù Cristo ti ha fatto bassi uomo e altro bassi femmina, ma se cazzo da semi scende, ma cosa semi scende? Non ho mai capito questa storia, la verità. La natura è strana, a volte si nasce con quella mentalità, c'ha il corpo da uomo, però è la mentalità di una donna e vengono attratti dagli uomini, sono cose che magari noi non possiamo capire perché non le proviamo, però io, c'è gente che dice sì, io la provo qua e là, tu sei magari il figlio di allora la cosa cambia, ti ricordi da casa magari, no? Comunque per me non esiste. Già la a voglia che l'ha provata, come? Tanto te lo ricordi quello che si metteva sotto al ciso, che in cerca voglio le scale quando si va al ciso. Cara Ghiccio. E si metteva lì, io non lo so, forse abita latte dolce lì, abita, non lo so, si metteva sotto, dove c'è il collocamento lì, quando eravamo lì, e si metteva lì, capito? Abitava vicino alla bomboraglia, a Pala. Non so dove abitava, però si metteva lì, si chiedeva la sigaretta, cercava di adescarsi. Non mi ricordo il nome. E non va buonissimo da me. E comunque, poi veniva Maria la Bassa. Quella non lo so. Ma la conosce Maria la Bassa? È morto, A morte? Mi ha detto andava al panificio dove lavorava Roberto, un amico mio. Ed una volta era mezzo sonnato, siccome andava sempre lì, andava così a parlare così. Una volta era sonnato, ti ha fatto 30 la gesta del rubano, ti arredendo, e si metteva lì salendo dal corso per girare verso questa colonna mariana, sotto quel porticato dove una volta c'era, chi c'era? Come ricordo, la banca mi pare. Su 5 era. Su 5? Ma abitava a Sassari tanti anni, perché io me lo ricordo. Ti chiamava, vieni amore, vieni, ti faccio passare una serata di fuoco. Di fuoco. Avanti, è andata lì. Tu già te lo ricordi la Maria Lambazza? Già siamo andati qualche volta. Cosa ti volevo dire? Già. Ho scoperto la canzone dei CB. Dei CB? Ah, l'hai trovata? È una canzone, Toga. La conosco, l'avevo ascoltata, me l'avevo anche registrata, e l'avevo trovata su Roger Capa, mi pare. Ma ti biglia, rugore di biglia. No, guarda, adesso te la faccio sentire, questa sì che è una canzone. Ma io quella canzone l'avevo spedita a tutti, ma da tempo, da almeno due anni fa, un anno e mezzo, due anni fa, quella canzone ce l'ho io registrata e l'ho mandata un po' a tutti, l'ho mandata, dei CB. No, ma questa qui è, dico io, è un'altra, aspetta che ve la faccio sentire, metto la portante fissa. Un pezzettino ve ne faccio sentire. Siete tutti cuocomani. Eric Clapton, Slow End. No, quella che ha soltanto era in italiano. No, non è in italiano. In inglese, sei americano, Eric Clapton. È chiamato anche Mano Lenta, perché suona un bebè nella chitarra. Cocaine è scritto. Non può essere da Dire Street. Per forza sono tutti cuocuomani questi cibi. Allora, tutti cuocuomani sono, questa è la canzone di Luca, quello del monte. No, io Giulio, forse quella che sta dicendo Giulio l'ho sentita anche su Roger K, ed è proprio in italiano e parla di cibi. Ma ti vado a dire il capo, cioè ti vado a dire un meme. No, io non l'ho sentita, non ne sapevo neanche l'esistenza. Io perché conoscevo questa qui, la conoscevo già, questa canzone. La stavo imparando a suonare pure con la chitarra. Dipende, tu, un attimino che c'è con la... Chi è l'autore? Cioè, non è... Dagli altri non pone a sé, secondo me. Eric Clapton si chiama. Noto anche come Mano Lenta, perché se lo senti suonare la chitarra da Suki, uno dei più bravi chitarristi al mondo. E grandete se Jimi Hendrix si è associato. Buonasera a tutti. Ma quello era Mancino, che... Comunque la Fender la fa suonare, non ti preoccupare. L'amico Sloan. E ha fatto un sacco di canzoni belle anche. Tu già non cantavi pure tu? Non ho capito. Io mi ricordo che cantavi tu pure tu. Sei a voglia. Adesso ho smesso. Roba autoprodotta, scritta da me insomma, con i vari componenti del gruppo, dai. Già ne abbiamo fatto le cose. Oh yeah, questo è cocaine, lino dei cibi. Oh yeah, Natalina fuori del gabbo. È perché non è vero. Comunque ce l'avevo io anche, quella chitarra ce l'avevo anch'io, quella di... Non riesco a trasferirla su WhatsApp, se no te l'avrei fatta vedere. Se me lo penso, c'avevo anche l'amplificatore Marshall. Ma tu sei cocaine o cocomane? Cocomane sarai tu, e anche Pirivella, hai capito? Mi l'ho trovato l'inno di cibi. Manco mai che va alla radio come ti si docca oggi. Mamma mia, troppo schiddina è da chita. Allora, quella che sta dicendo Gianni è me l'aveva mandata Giulio un po' di tempo fa, ed è un pezzo di Liscio, classica musica da ballo emiliana. È carino, la base è quella, è suonata con tutte le citazioni, le varie terminologie in cue e altre cose. Oh yeah. Natalia, tu stai dicendo la Fender Stratocaster, così è? Yes sir. Ma tu la conosci quella? Andiamo in Cuba, andiamo in Cuba, andiamo in Cuba, dove sintu, dove sintu, dove sintuba. Quello è il nome del drogo, il mittico. E qua. Le signorine belle. E a chi Santona Maru guida? Tutti bravi, tutti bravi. Tutti bravi, buonasera a todos. Guarda, non mi ricordo se è morto adesso. Sì. Giovanni Maria Santone è scomparso da poco, credo. Eia. Il number one è il fratello del mamma, Falchi. Anche quello. Gio Maria, io lo conoscevo personalmente perché lui lavorava lì a Canica, a Rubradu, dove producevano le uova. E io andavo lì a comprare le uova. E quindi a Gio Maria Santone lo conoscevo di persona proprio. Andavamo assieme. Anche già, non so se ci sei mai venuto con me, adesso non me lo ricordo. Comunque, che cazzo, proprio ne cantava di brutto quello lì. E quelle che si lavano comprati, me lo ricordo bene. Via Gio Maria Santo Sussi, in cui era Gio Maria Santo. Ciao. Aspetta lì, ti ho mandato la canzone, guardala. Adesso guardo, aspetta. Adesso apro WhatsApp dal computer, vediamo un po'. A me piace quella dei pompieri, la canzone. Sarà una fesseria, però mi piace. Dei pompieri? Sì. Ah, ai. Questa è una radio. La vigili del fuoco. Bombe a mano, quella lì, bombe a mano. Tanto, ma presidente, questa è una radio, ma come lo vedi? Eia! Questa mi piace un po' come radio, l'altra è quella che è davanti ieri o di ieri quando era troppo buono, non mi piaceva. Quello è un viaggio, io lo uso per fare un bel amplificatore ogni tanto, capito, ma non è una radio da 27, questo è il gemello del tuo. C'è una bella radio, un'armonia, c'è anche il mio compa così. Cazzo, è tutta quanto un'altra cosa, Non capisco perché devo fare quelle radio così. E tu quella M non è, quando io dico le cose, perché le ho già sperimentate, però è una radio affidabilissima, per carità, si può chiacchierare, si può fare, ma non ha la timbrica di questa, non ha questa nota, il tempo, diciamo che cioè, dal 1987 che uso queste radio, le ho provate tutte, credetemi, tutte, dalla valletta, tutte. In AM le ho provate tutte, vecchie, nuove, tutte, HF di ultima generazione e di prima generazione, non si viene a nulla. Quando parliamo di keyboard non c'è niente da fare. Vabbè, comunque anche quella la usava, comunque mi abituate ogni tanto a sentirmi anche con quella. L'importante è che esca bene, poi ce l'ho un attimo di questa pazienza. Gianni, quale che mi insegni a pescare? Carlo, Claudio. Oh, yeah. Ma la mia questa è. Sì, questo è il 440 che ti ho ritirato a te. Va bene, cari affutti di te. L'importante è che sei tranquillo e sereno. L'ho fatto a te, perché fosse stato un altro, non me l'avrei ritirato. Però te l'ho data io, mi hai chiesto la cortesia e te l'ho fatta, ma sono ripresa e adesso non lo doppia nessuno, ormai qua non me la fotti un sacco, non mi serve niente, va bene. Ma torna a casa lì, sì? Sì, perché c'è gente che non si fa i cacchi su e quindi Natalino giustamente si è rotto le scarpe, mi ha chiesto la cortesia se le ha ritirato nuovamente. Mi sono ripreso la roba creolata, l'ho restituito i soldi, problemi non ce ne sono, tutto a posto, e la roba è di nuovo qua, questo è il 44, su che andiamo. Fatto bene. Finché non si prende la patente, poi si può arrivare in culo. Appunto, quando si prende la patente gliela regalo, capito? Quando si prende la patente te la regalo, capito? A novembre sono gli esami, li hanno spostati, torna là. Meglio così, c'è più tempo. Quando ti prendi la patente, il giorno che ti arriva la licenza, la patente ti restituisco la radio. Non voglio manco una lira. Così ti metto la faccia nel culo. E quello è poco ma sicuro. Quando c'ho patente e libretto, possono fare quello che voglio. La gente usa se stessa a me a carbonati, no? Ci li avevo sempre, ci mettevamo il rifornitore della Esso in Camerano. Una volta ce l'ho giunti, buongiorno, aspetta qui dobbiamo, guarda, mi dispiace. Vabbè, se lo vogliamo perché mi raccomando, tocca tutto, va bene, a giro una volta, stia tranquillo che non prendo tutto, tranquillo, allora insomma c'avevo un po' di conoscenza. La terza volta battete la mano, promosso, perché sono andato una volta solo, mi sono rotto le balle, sono andato e mi ha giubiciata, era giunto, è giunto Lucio Calabrese con Zucca da l'altro non c'era quello che conosci bene, era in ferie, è a caldo, adesso basta. Tu che prenda il blocchetto del dei verbali, che qui adesso la cosa è veramente messa male. Hai detto, ascolti, se c'è uno che ha messo male qua è proprio lei. Come? Sì. Secondo me l'unico messo male qua è lei, guarda, aspetta un attimo, c'è un vecchio garascio. Battete le brette di circolazione. Ce lo potete valire che era rimasto, io faccio la cosa, l'ho pensato alla porta, e si trova come vai. E a me sono già due volte, anzi tre. Cazzo. No, basta da. Cazzo, chissà voi c'è Marrisane, si venne. Cioè adesso non mi fanno un cazzo perché sono in regola, però se venivano mi arrestavano. Ti ho detto, a novembre, fammi vedere carta accanto e io ti porto la radio col microfono, non voglio manco la vita. Così te la godi e te la tieni, a me non me la fotti nulla, è venuta. Adesso va bene così, non te la fotti di me. Stavo cambiando apparato, va. Come sentite con questo? Bene, è tenato bene, non c'è problema. Cappa, Antu, perché stavi frattivando? Antoine, aggiunte sulla mazza, boh. E forse è segnale. Bisogna segnare. Aspetta, te lo dico io. Prova, Gianni. È buono, questo apparato è buono, dai, si sente bene. Vabbè, dicevo già, sente, la funziona. No, questo qua è 3009, qua. 3009? Mi sembrava il bit della serpente. No, questo qua c'ha quel microfono che ci ha comprato Marco, me l'ho comprato anch'io. Ho visto che andava bene e me lo son preso. Se va bene, ottima modulazione, bellissima. Perché con l'altro era cupo, mi hanno detto che era cupo e quindi l'ho cambiato. Vabbè, si fa quel che si può, ogni tanto si spende qualcosa e buonanotte. Quindi se ti fanno bene, la frutta scialina. Siamo le fette asciutte, briacudina. Non ci sono, non si spendono. Natalino, qui ti piace la modulazione Natalino, hai visto che schiereggia forte? Ah. E io già ho so le schiereggia, c'ha dei picchi allucinanti quella là. Guarda, io sono a 20 watt e modulati 50. Oh, c'è una modulazione strepitosa. Ah, io dalla metti del Ruiz. No. Guarda, lascia perdere. Radio. Non ne voglio più. Basta uscì. Attraverso di campanello, ne ho 4. 4 però, si era novembre. Quando Natalino spende la patente, la vedrò Natalino e se la tiene lui. Non me la fotte nulla, ma io già sei dove mia. Oh, ieri sono sceso a Platamona a farmi un giro con Tyson, a farmi prendere un po' d'aria. E si sono avvicinati questi due cani randaggi di quelli mari proprio. Che aveva la museruola attesa, era giù cavata perché ne stavano abbaiando. Come l'ho mollato? Cazzo, gli ho mollato il guinzale, se ne sono fuggiti tutti e due. No. Bisogna ogni tanto farlo sfogare. È così, gappa gappa. Antonio, quindi non ti piaccio ieri, se già esce bene, allora, non è paragonare bene a questa la modulazione, però già esce bene, già si fa sentire. Ma non piaccio, non è gazzizza. Sì, vabbè, siete abituati a sentirmi con questa, però quella è una radio affiabilissima, esce molto bene. In AM va bene, è una radio diversa, c'ha più acuti, ma la tonalità è diversa, però è abbastanza affidabile. C'è una ricezione con la radio, sembrate qua, è un DSP digitale, è più manovra di un Galaxy Saturn, ecco. Galaxy è grande, mi sa quella più umana, poi ce l'ho la linea completa io. Non mi piace la verità. Magari ne so è una bomba, ma però una M non mi piace. Perché non sono fatte per andare in AM quelle radio. Non hai capito ancora. Anzi, è un miracolo che sta uscendo bene in AM. c'ha pochi watt pure in AM, perché non rende. Prova in banda laterale a vedere cosa dice. Banda laterale è ferma una bomba. È una bomba fatta oggi in 10 metri, però ogni tanto faccio anche qualche passaggio in 27, eh. È come un baracchino con microfono a tavolo, come un MB5, una cosa del genere. Non ha compressore, non ha né compressore né processore, né M, nulla. Questa c'è compressore e processore, capito? Però agiscono solo in banda laterale. Perché la spinta che tu senti, l'amplificazione, tutti gli acuti che hai, gli dà il microfono, l'MD100. Altrimenti se le metti il microfono normale è come un baracchino. Ma che mi sono l'avrebbero dovuto fare bene, cioè che funzionasse in tutto e per tutto, perché anche una radio che costa un po' di soldi. Avrebbero dovuto fabbricarla in tutte le bande bene, non solo in mondiale. Milovi! No, ma sia io come che io è così, no. Solo a Kendo te l'ha fatta completa le radio, ma sto parlando dal 920, 930, 940, all'820, 830, 850, cioè qualsiasi tipo di radio che ho usato, anche con lo stadio finale a valvole, tutta pressurizzata, i vecchi modelli, non escono sempre bene, sempre. Sempre. Mentre gli Aesoi come non hanno mai curato niente, tutto qua. Avanti, Rubaffè. Gianni Rubaffetta. Che è successo? Pronto? No, la sta uscendo. No, facciamo la sta uscendo. Sbagliano comunque a non curare le cose qua. Va bene, dai signori, io vi lascio. E ci sentiamo, vai. Ieri non sono entrato perché stavo facendo una chiacchierata con Sara, capito, e quindi stavo parlando un po' di cose importanti, quindi mi sono voluto stare con Sara. Ok, ciao, ci sentiamo. Ciao tu, non c'è problema, siamo qua quando vuoi. Sono rientrato? Piacere. Già, però non mi è arrivata quella canzone che stavi dicendo. Arrivato, aspetta. Mica ha bussato bulldozer, Massimiliano. Oh, scappato, Devo dire, imprisando. Magari si deve fare la doccia, capito? Ecco qua. Questo è il Galaxy col microfono normale. Ha detto Massimiliano è sempre ben abituato a farvi dare nata all'altro. Io non l'ho sentito. Se l'hai sentito solo tu. Sì, sì, ha bussato mentre stava parlando. Si sono sovramodulati con Antonio. Ah, così. Il forte le piace fare, eh? Il forte ti piace fare. Questo già è il Galaxy col microfono normale, mi accoppi. Gianni quale? Gianni Rubio, mi accoppi. Ma non mi accoppia più nessuno, uscendo sto, pronto. Già, stai uscendo, ti ha risposto Gianni. Non l'ho accoppiato. Ciao, bene. Forte chiasso. Io ho 10 chitarre. No, l'ho tolto il microfono a tavolo perché mi stava dando fastidio. Ho rimesso l'altro 60, non c'era più posto. Natali, te l'ho mandato. Questa come va già col microfono normale? Il Galaxy. Serata è feo. Va bene. Feo ce l'hai tu, hai capito bello bene? Ah? Offre da faccia vai. Come c'è verticale? Oh, la voce mia è verticale. Fredda faccia vai, vedo dove? Io no, aggiungo bene a Casimiro Andù. Che sei lontano, non aggiungo macchina, è moto, posso farà. Pare è moto, non ve ne è problema, buonasera a tutti. No, io ho visto di parlare sopra, non ha compreso, bello bene. Ciao, ci vediamo. Vai, stai sempre sovramodulando. Buonasera a tutti. Sono entrato in Gambattese, ho sentito il mio amico Rubaffetta, grazie, ero in gamba che non venne a nessuno. Ciao, Massimilia. Rubaffetta o prefetta? Oh, Rubaffetta, che mi manca un dente, non riesco a dire Rubaffetta. Ciao, Massimilia. Finza la risa, ne è accappata, Gian. Sì. Ciao già. Ehi. E ma come stai a farle? Mi ho mangiato l'altro giorno. Da posto, sì. Abbastanza. Va bene, ok. Vai, doppio ru, riprendi, fai girare la palla. E muore al centro, va. Ehi, riprendi Nazarì, dimmi se ti è arrivata quella roba. Ma negativo, Ma io la spedisco e non ti arriva. Cioè, come è possibile? La manderei a qualche altro, vuol dire. Vaggio, il telefono e il computer in oggi, non lo so qui. Già, la devi arrivare a casa sua, è lontano la casa tua. Andiamo e andiamo. Allora già cambia il radio, sì. Era giusto per fare un passaggio così da. Un giro di commutatore, siamo a posto. Mamma mia, va. Appena atterrato a casa, c'ho ancora i piedi in ebollizione. A bagno li avessi, a bagno Maria? No, da voi proprio la cogliufa a bagno Maria. Sta attento lì, proprio mettiamo la cacciarovura, Sì, sì, tutto a posto. Avanti, un prefè, non ridere. A me mi attira la risata del prefè, raga. Ehi, ma il video è già fatto nella pioggia, non ridere, Oi. Vabbè, non riesco anche più a farmi andarmi. Sì, ma non c'è maniera più di così. Sempre nel colegio mi sta dire sempre l'urene. Ma non c'è maniera più di lì. A chi mi fa dire di troppo, ma dentro algo. Cesso, Capra, va bene. Com'è ragazzi, tutto a posto, sì. Tutto a posto, tre batterare, ci abbiamo fatto una bambaria fresca, due patatine. Adesso devo pulire le cose. Mamma mia, come so. Anche io, Claudio, arrivato, benetta fresca, due patatinette, veloce. Adesso mi faccio una bella doccia di quelle. Hai visto quando si accrucifisce la pelle, no? Così. Ci vuole. Disidratare bene, capite? Non li raggremo a rugoneccione, capito? Se non si intrucciano, se non ti si screpola col freddo. Eh beh, quella ci vuole. E anche dietro un po' di fannolore di fave, capito? Cava. Avanti, un prefè. Bene, Meda. Sta tirando un po' d'aria, dai, meglio male. Si respira. Sì, è vero, si respira, hai ragione. Mi dica se faccio un po' di aria calda, lo senti il fuoco? Approfittane va, dimmi la Daniela, darti una soffiata. E se non andate un bel io, cosa soffi? Ciao Letra, non ti riscalda. Hai ragione, là. Gatta lì, è bene, ma mangiando stai, ora l'orario d'ospedale. A me che era fatta gente, voglio dire, se è Mario, hai detto senza regalo da te occupo un volo. Cava, gatta lì. Ehi. Ma sì, ma niente, cazzo, mica non è ora, a rifilare ancora non so niente. Più tardi. Devo iniziare. Aiuto, doppio ru, riprendi. Ehi, non ho argomenti stasera. Stavamo parlando di musica, di canzone, di chiso, di l'altro, ma ho finito gli argomenti. Ehi, vabbè, si può parlare anche di tutto, va. Io ho detto che c'è un po' di odore di fave, va. Io sono datato che non è maggio. Già mi piacciono le favette con la ventuccia, aglio bredusibulo, sono buone così. E anche a me già mi piacciono. A te ti piacciono il brefè? Se te l'ho detto, l'ho mangiato qualche giorno fa. Buona rete. Cucù. Sì, già sono buono. Ma io stasera mi faccio, tanto sono da solo, loro devono andarsene in pizzeria. Io mi faccio due fettine impanate con due patatine fritte e la cosa è bella. E la birretta fresca? Ebbene, ieri l'ho presa, un'altra a casa, se non sto bevendo acqua. Tanto lei va la gioco con prendere, se non puoi la macchinetta del caffè, Ma ti imbuffa troppa birra, Ma già, se tu mi vedi non mi riconosci più, cioè gli addominali girati al contrario. Davvero? E tu prendi quella, diciamo, quella che non è gasata. se chi sa il figlio chi si è aggazzata ti va di buffare il soga. Allora va giù, da sotto c'è il rubinetto, troppo pieno, apro ogni tanto e scendo l'acqua. Cava. Vabbè, anche io questi giorni qualche duna me lo bevuto anch'io, perché c'è troppo caldo. Qualche duna, io che come te leva la birra, allora la bevo solo io, però io per esempio appena arrivo dal lavoro mi siedo in cucina, mi faccio la chiacchierata e mi bevo la birretta, e poi cenando un'altra birrettina ci sta, dai. È interessante non esagerare, perché poi già lo sai che l'ufficio ti domanda un conto che ne esagerici. No già, ma è tu il medico, due birrette al giorno togli il medico di torno. Così ti ha detto, sarà cacchio alcolizzato il suo medico tuyo. Così è un bel pezzo. La carità. Vai che se tutto è preso con moderazione non ci sono problemi. Certamente che sì, è tutto nella norma, no? Senza esagerare né nulla. E quello che siano due birrettine da 33, ma. Poi adesso col caldo non so come ti si fa. Proprio dritta si scende. Ecco, va bene una bottiglia a 60 sì. Infatti già, ma è. Casino è. Che ti gonfia un po', vabbè io sono un po' gonfio, ma vado in nulla, là. C'ho solo una ventina di chili in più di pancia, là. Cosa bevi, Crusa? No, l'Crusa no, è un periodo, qualche anno che non mi sta più piacendo. Io la verità vado più sulla Vastainer, Tubor, Bavaria, questa cosa così. La Stella Artois mi piace un bel. Le due birre che mi piacciono di più sono la Stella Artois e la Vastainer. No, io bevo in Chinusa. Vicino a noi la ditta lì costa 1,20 euro mi pare, o 1,10 euro mi pare. Fresca, te la danno già dal frigorifero, 1,10 euro, troppo bene anche su. No, a me la verità, lì Chinusa mi pare più un poco. Magari un po' di anni fa indietro era buona. Ma adesso mi sa più di acqua colorata, vero Brasetto? Noi non se ne abbiamo nuda. 15-20 anni fa era buona, si poteva bere, poi la grande entrata sotto l'ombrello dell'Aine che è diventata una boccaria. Guarda, lo sai qual è buona secondo me l'Ichinusa? Quella da mezzo litro, quella non filtrata, quella ci fa bere, là. Forse quella che si salva, dai, perché per il resto ho provato la cruda, ma caricare, lui. Un po', non mi va quella lì, mi piace più quella gasata, sarà di buffa, però la bevo con più gusto. Avete parlato in due, cos'è il prefetto? Ho detto che forse di quel marchio lì, quella mezzo litro, quella non filtrata, forse è l'unica che si salva. Ho provato una volta la birra cruda della Bacari Dai. Quella bottiglia trasparente della Moretti, quella lì sta dicendo? No, sempre di Nicrusa, la birra cruda di Nicrusa. La cruda, birra cruda, chi sa una boccaria? Ma dico, c'è la bottiglia bianca trasparente, vero? No, rimane marrone scuro, cambia l'etichetta, i caratteri con le scritte diverse, dai. Non lo so, non l'ho mai assaggiata. E tu, Natali, qual è quella che ti piace di più? Alle bevi birra? Ma è potuta vedere. Tu fai a vino, sì, guarda. Qualche bicchiere già me lo bevo di vino a pranzo, però. E a cena cosa ti bevi? La bottiglia? Il boccione. Se ti bevi il bicchiere, cazzo, a pranzo, a cena la bottiglia, no? A me mi sembra strano, mi sta piacendo del lambrusco, perché mi fa anche digerire. A me questa roba così non mi piace più. No, proprio poi il lambrusco, pappa via. È buono, è gasato, ti fa digerire, non è forte. Sono gusti già, a me non piace, devo essere sincero. Ma manco io prima ne bevevo, l'ho provato una volta e mi è piaciuto. E a te ti piace, Roberto? Oh. ho capito già di cosa sta parlando. No, quei vini così non mi hanno mai esaltato. Sono più quella roba teccia, capito? Quella vino a vero, mi. Allora, buffonando, di quello sardo. Oh, non perfetto, ieri notte ti ho visto. E dove mi hai visto, dai? Eri seduto sul tetto a prendere il fresco, col drone, mi sono messo lì. Ah. di questi tempi non sarebbe male come idea, a prendere fresco in terrazzo. Stavo aspettando l'antenna nuova che gli arrivasse. Arrivata a te? No, ancora devo fare l'ordine. Ah, ok, va bene. Ma è Claudio, caduto da faccia a terra? No, dice che c'era... Dice che è arrivata gente, quindi si è spostato. È arrivata in aria, poi non lo so se doveva mangiare o che cosa doveva fare. È una cosa che lo dice apposta, perché quando non sa cosa fare, lo dice apposta per spostarsi. Sì. Allora, che non sa più cosa dire. E tu lo conosci meglio di me. Sta girando il porcetto. Sta girando la cosa. Mamma mia, come sto. È una rimascia lunga, dov'è? Che anima lunga, beh. Non c'è. Saverio è rientrato un po' in radio. No, Saverio alla moglie che ha partito da poco sarà col pupo. C'era anche ieri in radio, già. Ah, boh. E allora magari ha avuto un po' di tempo ieri, non lo so. Perché ogni tanto anche l'altro giorno c'era, poi si spostava per tenere il bambino. E vabbè, tutti l'avevamo fatto, adesso tocca a te di nuovo, Massimiliano. Ma poi su blu fino. Sto così bene io adesso. Non le vuoi altri? Oh già, sono troppo vecchio, non ho fatto più. Io vecchio, cazzo. Se tu ti rivecchi fossi come te, te. No. Basta già. Non è periodo di far figliura, vanno. Su quello ti do ragione, su quello l'avvenire che hanno questi ragazzi proprio è quasi zero. No, anche perché adesso già se non vai a scuola, che sei laureato in qualche cosa, non fai carriera, non andi a lupo. Ma perché il reddito di cittadinanza, capito? Capito, va di vai, niente, andare a lavorare così. Si gira l'altro fianco. Se da un giorno che si girano lo tolgono di colpo e poi si trovano tutti a culo a terra. Magari. Guarda, io sono d'accordo a darlo alla gente quella proprio che è necessario che glielo diano. Ma c'è gente che non fa un cazzo dalla mattina alla sera ed è campata da noi, capito? Che ci ho detto cittadinanza? Ce lo tolgono a noi che stiamo lavorando dalle buste paga, dalle tasse, capito? Noi siamo bagagli nulla, dici, ah, in mani che sono in casa, c'è sta fa un cazzo. Hanno praticamente hanno intervistato questo di colore su internet e ha detto come mai siete venuti tutti in Italia? Perché qui in Italia ci danno soldi senza fare niente e violentiamo le donne. Bruciato. Hai capito? L'ha detto così al giornalista. E fa di violentare le donne. Sono attenti fino a andiani con che cosa è facciata. No, io ti ripeto, io sono d'accordo a darlo a quelli che ne hanno veramente bisogno. C'è gente già che non ne ha bisogno e ce l'ha, capito? E quante truffe che fanno. Sì, è vero, anche io sono d'accordo su quello. Se uno ne ha bisogno, che ha sempre lavorato e purtroppo adesso si trova, perché tutto può succedere, Massimiliano, trovarsi di colpo senza lavoro, quelli io li aiuterei. Però ci sono questi sudafricani che vengono, ci sono dei costi per lui, sono dei costi grossi, e appunto come dici tu ci rimettono in tasse, ci rimettono in cose. Adesso perché adesso ci danno la carabellina a luglio, ci danno 20 euro, no? E dopo te li fanno pagare, magari ti mettono un'altra tassa e devi pagare più di 20 euro. No, già adesso a luglio danno 200 euro, non 20 euro. Sì, 200 euro, sì, scusi, mi sono sbagliato dicendo. Però magari ti mettono qualche tassa che ti fanno pagare di più di quello che ti danno. Cosa vuoi chiesto? Non so cosa ha detto, è spagnolo forse. Ho già compreso io il reddito. Attento, collega della Spagna, se va a scussiare l'isola della Sardegna, adelante. Tutti qua entrano sul 10. Adesso non ve ne luogo, la ciabatte, boh. Perché si sentono qua, capito? Solo sul 23 c'è un'altra ruota, ma non è sempre che c'è, quindi quando sentono gente si fermano. Basta che noi ce ne andiamo tutti sull'11 alfa e se ne vanno a fanculo questa gente. Ma la lì non tutti ce l'hanno. che è quello il problema, capito? Vabbè, io, tutti ce l'abbiamo. Ce l'ho io che ce l'ho omologato. Anche io sono operativo. Ehi, canto di muriti di Alfa. Io ci ho volato a massa. Ce ne, uia, per carità. Va bene, ok. Dai ragazzo, dai, io lascio acceso qua, però... Me la doccia, là. Che così mi rinfresco un pochino e poi li metto a riprendo, ok? Vai, Roberto, riprendi e fa girare. Ehi, ah. Dai, ci vuole una bella... Una bella doccia, come si dice? No, non rinfrescante. Apri le lenti, non mi lamento, dai, vabbè, già ci siamo capiti. Forse rigenerante. Ciao Massimiliano. Beh, Natalino, sì, volevo dire quello. Allora, qua con io per me è meglio, va. Ma là ce lascialo fuori, mi. Quello lo avvolgiamo in una busta, se no si bagna. Si sciupa, mi. Oi. -20 18:39 per esattezza. Vediamo se c'è. Se il Condor pasa. Sarà in agguato, sarà quello. Quello è in agguato, Sì, sta origliando secondo me. Sta origliando. È come arriva il momento propizio a tirare la zampata. Ciao, ma ci vediamo, ci siamo. Vi siete parlati sopra. Ha le orecchie pelose. Oi. Ah. Buoni ravioli a pranzo. Beato te. Io mi ho mangiato un po' di minestra e ceci. I legumi già lo sai cosa fanno, no? infatti. Oi. Scintille, oi. Gianni, ci sei ancora? Sì, ci sono. No, io ho mangiato zucchine fritte, fatte tipo hamburger così, fritte, macinate e poi fatte come un hamburger fritti così. E poi mi sono mangiato una bella fettola di fegato, bello grosso, tagliato bello grosso, arrosto. Ah, ecco. Giusto per non farci mancare nulla. Sì, ma prima io non ne mangio, capito? Almeno quello. Prima non ne mangio mai, io lo mangio solo la domenica qualche volta, ma proprio di raro. Ho capito, anche io, guarda. È rarissimo che mangi due volte al giorno. Mangio bene una volta, mi decio e poi basta per tutto il giorno. Vabbè, va bene anche così. Ma sforzi troppo l'apparato digerente così, invece se me ne mangi poco una volta e poco l'altra, digerisci meglio. Vabbè, ma se non c'è problemi di gestione già va bene. Stiamo parlando di cose nella norma, non è che ogni volta mi devo, mi devo sfondare di roba da mangiare. Tutto nella norma, molto regolare, niente di esagerato. Oggi ho esagerato con l'anguria io, con l'anguria ho esagerato. Anch'io l'ho mangiata oggi. Ma la mangio ogni volta di tanto, capito? Perché è un po' scocciante, ti fa tutto di qua nella mondetta, che è un casino. Ogni volta tocca lavare tutto, fa tu vera, che tu vera. Lo so, soffrire per imbellire. Guardate che sto vendendo baracchini, le volete? Io parla, dimmi che baracchini c'hai. Avanti il motocarro che sta vendendo baracchini, chi è? Con il reddito di cittadinanza e poi glielo ripeto. E cosa? Non ho capito. Cosa ricopri con il reddito di cittadinanza? Sì, eri voi. E che baracchini c'hai? C'è l'effetto fuso orario, l'effetto... aiutami Natalino. In ritardo, praticamente, risponde in ritardo. Ritardo. Io a scoppio ritardato va questo. Di norma quando uno viene rilanciato deve entrare subito, non 10 secondi dopo, sennò non si comprende nulla. L'amico che stava nei baracchini, Brecco. Che dice, lo sai, cara? Te lo dico io. Il signor Stanco, avanti. Buonasera ragazzi, giusto il tempo per fumarmi una sigaretta e riprendo a farmi le mie cose. Come va? Tutto bene? Sì, padrone. Grazie a Dio, sì. Vabbè, tutto bene, che va? Ho fatto andare meglio, va. Però fa appunto un tempo. a Sessi, si va a Biglianculo. Ehi, vabbè, non ti lamentiamo, dai, ci sono da Biggi, da Bu. Infatti è così. Ciao Giovanni, buonasera, Gianni da questa parte. Ciao Gianni, buonasera, ben sentito. Come stavo dicendo, giusto il tempo a fare una sigaretta e poi c'ho un pochino di cose da sistemare. Non dovresti fumare? Ah, sto riuscendo a fumarne massimo 15, cazzo, lo so che sono tante, però purtroppo mi risolgo fumando. Prendo anche le sigarette col credito. Ah, io te lo dicevo, non cazzo questi baracchini che ho comprato col credito, avanti. Alla 48, lo vuoi? No, non mi piace, prende troppi splatti. Petrus. Petrus. Il Petrus potrebbe interessarmi. Con la stazione base. Sì, sì. L'olio mi potrebbe interessare. Quanto lo sei dato? 200. Non c'ha però il frequenzimetro? No. Quello mi... A me piace col frequenzimetro, il Petrus mi pare che... Ma è quello cromato il Petrus, vero? Quello color argento. È nero. Nero. E poi cosa stai dando? È una 18. No, no, quello lì non mi interessa. Ma tutti funzionanti sono. E tu amplificatori in ignati? Mi potrebbe interessare a Giovanni, magari. Giovanni, ti interessa la te baracchina? Guarda, io capo il padre. No, no, già mi bastano quelli che c'ho. Il Petrus 200 è troppo. Vendono il Galaxy che c'ha anche frequenzimetro 220. Appena mi fanno la ricarica mi compro l'autostop. Prendete l'autostop? L'autostop. Ehi, non ho una buffona, sai che viene un bel di niente che va di cuscimi, che si compra già ricazzati, che magari non ha bisogno di soldi e con il reddito di cittadinanza si compra le cazzate. Meno male. Quindi, non è che sia uno scherzo, c'è gente che fa così. Avanti Natali, comunque non ci hai detto ancora chi sei, come ti chiami, il tuo nome nativo, avanti, il mutismo, vabbè non ha percepito, avanti Rubrofe. Eia, è un po' timido forse l'amico, ancora non sappiamo con chi abbiamo il piacere di parlare. Almi compagni. Raga, continuate a indagare, avete capito? Vi devo salutare, ciao, buon proseguimento di serata a tutti, ciao ciao. Ciao Giovanni, a Sanredici. E te l'ho detto, una sigaretta, devo sistemare un po' di cose. Va bene, dai. Siamo qua, se vuoi, siamo di qua. Avanti Natali. Ciao Giovanni, ciao, alle prusse. Ciao Natalino, ciao. Ciao Giovanni, alla prossima. Ciao Gianni, ciao ciao ciao. Avanti quello che compra con le tue città della sera a Parigi, chi è? Alla che di Rubisi, non lo vede che è un qualquara qua. Arrivata a te quella cosa, Natali? Yes. Ah, sicuramente aveva ritardo, però io te l'ho mandata perché a me mi appariva che ti è arrivata, capito? La famosa spunta. La canzone di CB. Le doppie virgolette blu, la spunta. Capo. No, forse è diversa questa qua, ancora diversa. Guarda, se tu cerchi Inno CB, Inno CB e radioamatori, così è intitolato. È copiato già. Eia, me l'aveva mandata Giulio tempo fa. È un pezzo, come si chiama? Quel ballo tipico romagnolo, cazzo non mi viene adesso, non la mazurka, no, il liscio. È un pezzo cantato con una base di liscio, dai. Ma no, è una mezza bucarina. Non mi è piaciuto assai. E tu avanti, ascoltando stavi a Reccioli. No, sono uscito un attimino a fare una commissione per me e via. Ho capito. Qua scemo. Ho sentito. Claudio si è sentato, non è più rientrato. Claudio! E ha bisogno di preparare a che cosa? No, forse sono andata a gente, è andata a gente sicuramente. Eia. Sono solo le 7:10. Boh, pensavo fosse più tardi. E infatti, già è presto. Andava. Mi sto avendo capo capogiro, adesso non so che cosa sia, se si è addolci il collo, capogiro, aspetta un attimo. Atto, riprendi. Sì, scappa. Cosa? Addolci il collo, sì.